Ciao a tutte e tutti e bentornati e tornate al Auru, la trasmissione di Radio Wombat che parla di Africa attraverso la musica e attraverso le notizie. Stasera parliamo e ascolteremo anche soprattutto del popolo Saharawi. Questo perché la scorsa settimana al CSA Next Emerson c'è stata la presentazione di un fumetto molto bello sulla vita di Mariem Hassan, una Saharawi appunto, che si intitola il fumetto Mariem Hassan, io sono Saharawi, e che attraverso lei fa la storia di tutta l'oppressione che il popolo Saharawi ormai sopporta da quasi 50 anni. E quindi di questo parleremo e questo ascolteremo in questa puntata. Sì, Mariem Hassan è considerata la stella polare dal punto di vista culturale e musicale dell'indipendentismo saharawi e tutta la sua vita sostanzialmente è andata di pari passo con la vita dell'intero popolo saharawi. Tant'è che Mariem Hassan è nata a Asmara nel 1958, in un periodo in cui questa zona, questa dovrebbe essere che è la Repubblica, dovrebbe essere la Repubblica Saharawi, era ancora sotto l'occupazione marocchina, appunto era spagnola, scusate, appunto era chiamata Sahara spagnolo. I cambiamenti radicali arrivano per Mariem Hassan negli anni 70, quando esattamente come tutto il popolo Saharawi subì in pieno le drammatiche vicende legate all'invasione territoriale di West Sahara da parte della Mauritania, ma in particolare del Marocco. E come quasi tutto il popolo Saharawi ha vissuto in pieno l'esilio, l'ha portato a vivere nei campi profughi presso Tindouf in Algeria, nel deserto dell'Hammada, noto per essere uno dei luoghi più inospitali della terra. E lei ha sempre diviso la sua vita tra la carriera artistica e contemporaneamente, diciamo, le iniziative per la liberazione, per dare la libertà al popolo Saharawi. Ha vissuto nei campi fino al 2002 e per un certo periodo successivo in Spagna, ma poi è ritornata nel momento in cui aveva problemi di salute nel campo profughi di Smara, nei pressi di Tindouf in Algeria, e qui appunto è morta. E questo fumetto appunto narra la sua vita e narra diciamo la storia del movimento di liberazione Saharawi, in particolare appunto di quello che è portavoce, quello che praticamente racchiude tutte le istanze del popolo Saharawi, della totalità del popolo Saharawi, cioè il fronte polisario. E Mariem Hassan racconta di essere rimasta impressionata fin da bambina dal canto della madre, e il suo esordio inizia già nei campi profughi nel 76, quando entra nella formazione e prende il nome di El Ouali, dal nome del patriota El Ouali Mustafa Said, ucciso appunto in combattimento. Nel corso degli anni 70 partecipa alle attività concertistiche dal vivo di questa formazione e gira appunto non solo l'Africa, ma anche a giro per il mondo. E a un certo punto, nel 97, dopo la fine, dopo lo scioglimento di questo gruppo, un produttore discografico spagnolo, iberico, Manuel Domínguez, nota lei, così come altri cantanti saharawi, e con questa etichetta Nube Negra compila, fa una compilation che successivamente, attualmente, è stata riproposta un cofanetto di tre CD intitolata Saharawis, Musical Western Sahara, divisa in tre CD. Attualmente, A pesar de las heridas, è il primo, Sahara Tierra Mia è il secondo CD e Polisario vincerà la terza parte. E appunto iniziamo questa rassegna di musica Saharawi proprio appunto Mariem Hassan. L'altra protagonista di questa trasmissione sarà Aziza Ibrahim, con il primo pezzo che si intitola Hijos de la Revolución. Hijos de la Revolución. Questa era Maria Massan, vi ricordo che siete su Radio Wombat, vi ripetiamo un attimo le cose per orientarvi nella radio. Wombat.noblogs.org è il sito da cui state ascoltando questa trasmissione e da cui potete ascoltare attraverso il menu podcast le trasmissioni, tutte le trasmissioni di Uru, ma anche di tutte le altre trasmissioni che ci sono nella radio. Vi ricordo anche il profilo Twitter Wombat Fi e Radio Wombat Fi, scusate, e vi ricordo che Uru ha un proprio profilo Twitter che è Uru-RW di Radio Wombat. La posta per comunicare con noi, posta Wombat @insiberia.net. Parlavamo prima appunto di Maria Emma Sem, della sua vita, e si intreccia in continuazione con quella, con la lotta di liberazione del popolo sahrawi. A proposito di questo, un anniversario sotto certi aspetti, perché il 10 maggio 1973 si forma ufficialmente il Fronte Polisario, Frente Popolare di Liberazione del Sahrawi e Hamra e Rio de Oro, e cioè Fronte di Liberazione Popolare del Sahrawi e Hamra e Rio de Oro, che è appunto il West Sahara, Sahrawi. E dopo appena 10 giorni, cioè il 20 maggio 1973, c'è proprio la prima azione di guerriglia da parte del Fronte Polisario contro appunto una caserma militare spagnoli, perché appunto fino a 1900, ancora in quel periodo, nel 1973, il Sahara occidentale era occupato militarmente dalla Spagna. Poi la Spagna se ne va e in Marocco organizza questa marcia negra, come viene chiamata, da parte del Polisario, da parte del popolo sahrawi, per occupare militarmente e politicamente questa regione. Ma fin dalla fondazione il Polisario organizza una guerriglia contro le forze di occupazione, quindi all'inizio contro la Spagna e successivamente contro il Marocco, e la particolarità è che si tratta della prima strategia di guerriglia organizzata in un territorio desertico. E a partire dal 75 si stabilisce proprio appunto nel periodo dell'occupazione, dell'inizio dell'occupazione marocchina, il Polisario si stabilisce a Tindouf nell'Algeria occidentale, e nel 76 proclama formalmente la Repubblica Democratica Araba Sahrawi. E ritorniamo, prima di ascoltare un'altra sua canzone, ritorniamo un attimo a Maria Massan per parlare del significato delle sue canzoni. Infatti ogni canzone di Maria Massan fa delle liriche un tassello imprescindibile della sua matrice artistica. Per esempio, tra le tante che ha che ha fatto, segnaliamo dal disco Deseos il brano che racconta della malattia e delle speranze ad essa legata, Muthamaniat. E la canzone G'dayim Izik racconta le vicende legate al 2010, da cui partì il fenomeno sociale chiamato poi Primavera Araba. E ce l'ascoltiamo subito, G'dayim Izik, appunto questa canzone che parla della Primavera Araba. وكل عام يزيد وتعتيم غير بعد ثلاث الأيام خيم لقدام غير بعد فهذو الأيام وضحوا مخيم لقدام اتبعت E da quel lontano 1976, in cui appunto il Polisario proclama formalmente la Repubblica Araba Democratica Saharawi, sta continuando, continua tuttora a combattere insieme a tutto il popolo saharawi per la propria libertà, per la liberazione del Western Sahara. Nel frattempo, una delle cose più importanti, nello stesso momento più vergognose, tant'è che appunto viene chiamato il muro della vergogna, appunto questo muro costruito dalle truppe dal Marocco per dividere il Sahrawi in due parti, una piccolissima verso est, in cui risiede tuttora una piccola percentuale di popolazione Sahrawi, e una grandissima ad ovest, e che quindi ha anche lo sbocco sul mare, che è di fatto occupata dal Marocco, ed è la parte ricca, diciamo, quella che è appunto questa lunga striscia di terra sul mare, un mare pescosissimo, e al cui interno si trovano i giacimenti di fosfati più grandi, i giacimenti fosfati tra i più grandi del mondo. Quindi appunto la lotta del popolo Sahrawi sta continuando, e proprio per questo appunto si stanno susseguendo tuttora manifestazioni, iniziative di solidarietà in tutte le parti del mondo. Tra il 2011 e il 2012 Maria Massan mette in piedi una delle cose più importanti che ha lasciato, anche se e cioè la trasmissione della storia orale saharawi. Infatti questo progetto, che la vede protagonista assieme ai più importanti poeti della sua terra come Bashir Ali, Badi Mohammed, Salem e Beyout, è sostenuto, oltre che dalla sua etichetta discografica, anche da tutta la cultura saharawi. Di lei ci sentiamo un'altra canzone, la canzone si intitola Arfa. Arfa, Arfa, Ambaraka, يا ميمونة يا السالكة. عرفة عرفة يا مباركة، يا ميمونة يا السالكة. كحل سود فمها في الزوز مسرق، عينها في الكحل سود فمها في الزوز مسرق. عرفة عرفة يا مباركة، يا ميمونة السالكة. عرفة عرفة يا مباركة، يا ميمونة. يلا نمشوف يعطيكم وليد محني لي أعطونا شي والله نمشي يعطيكم وليد محني لي أعطونا شي والله نمشي يعطيكم وليد محني لي عرفة عرفة Sì, ricordiamo che Uru, oltre ad andare in onda in diretta il venerdì alle 21.30, ha le sue repliche, due repliche, una la domenica alle 23 e l'altra il lunedì alle 8.30 la mattina. Ricordiamo anche, lo potete riascoltare in podcast, così come tutte le trasmissioni di Radio Wombat, andando al sito della radio wombat.noblogs.org e primo menu a sinistra, menu podcast, ci cliccate sopra e automaticamente vi appariranno in un ordine anche un po' casuale i podcast di tutte le varie trasmissioni. Ricliccando su quello con scritto URU risentirete appunto i podcast e vi apparirà la pagina con tutti i podcast delle trasmissioni di URU. Adesso ascolteremo una delle altre grandi cantante saharawi, e cioè Aziza Brahim, che è nata nel 1976 nei campi profughi saharawi nella regione di Tindouf in Algeria, dove sua madre si era stabilita alla fine del 75 in fuga dall'occupazione marocchina del Sahara occidentale. Suo padre invece rimase a El Aaiun, dove morì in seguito. A causa della guerra del Sahara occidentale, Aziza non potrà mai più rincontrarlo. Cresciuta nelle condizioni appunto estreme dei campi profughi, che ricordiamo sono in mezzo al deserto, in mezzo a niente, Aziza usa la musica per comunicare le sue emozioni e soprattutto la sua voglia di resistenza sua e del suo popolo. Anche lei faceva parte dell'album nominato prima della musica del Saharawi, e di lei ci ascoltiamo Laji, e il testo è veramente bellissimo, e l'inizio dice proprio che lei è praticamente venuta al mondo da rifugiata e cresciuta sempre da rifugiata, facendo anche un parallelo con altri popoli che crescono da rifugiati, e anche dei Sahrawi che non sono lì nei campi profughi dove lei, ma che comunque sono comunque profughi in altri posti, in altri paesi. Aziza Brahim Laji. من يوم مترارات في الدنيا وانا لاجي Eh sì, ci spostiamo un attimo, ci spostiamo un po' più a sud, precisamente in Senegal, e anche in questo caso per ricordare, per portare all'attenzione un altro anniversario. In questo caso si parla del maggio 68, appunto un maggio caratterizzato dalla rivolta studentesca, e quasi una rivoluzione anche a Dakar. Una faccenda di borse di studio non elargite, di condizioni logistiche inadeguate, che porterà il paese diciamo proprio a uno scontro tra una voglia diciamo di cambiamento e mentre invece una repressione da parte di deteneva il potere. E il 29 maggio appunto a Dakar i gendarmi irrompono nell'università. Alla base appunto, come detto prima, c'era un problema di borse di studio e uno studente libanese muore. Il 19 ottobre 67 il governo aveva deciso di versare agli studenti assegni per 10 mensilità anziché 12 e per di più ampiamente decurtate. Il 24 maggio 68 gli studenti annunciano lo sciopero a oltranza e con loro solidarizzano subito i sindacati dei lavoratori. Il 31 maggio il movimento coinvolge le principali città del paese e l'associazione degli studenti africani in Francia occupa l'ambasciata del Senegal a Parigi. Tuttora le interpretazioni su quello che è stato il maggio 68 a Dakar non sono unanimi anche tra i protagonisti dell'epoca. C'è chi mette l'accento sulla condivisione nel mondo giovanile dell'epoca e quindi anche a prescindere dalla sua dislocazione geografica del medesimo spirito del tempo, letture, musica, correnti di pensiero, e altri che insistono sul fatto che non fu appunto un'emulazione. Queste rivendicazioni economiche concrete erano vitali per il proseguimento degli studi, tant'è che Batili, per esempio, lo storico Abdullah Batili, uno storico senegalese che all'epoca nel 68 aveva 20 anni, era tra i protagonisti della rivolta, precisa tuttora che il movimento in Senegal era di fatto cominciato ben prima che a Parigi, smettendo così la presidenza della Repubblica, i poteri forti senegalesi dell'epoca, che sostanzialmente considerava questi fatti come uno scimmiottamento dei francesi, cioè che i giovani senegalesi scimmiottavano i coetanei francesi, senza che in realtà in Senegal non ci fossero questi problemi e conseguentemente non ci dovevano essere queste rivendicazioni economiche. La crisi nel 68 scuoterà tutto il paese e si trasformerà in una crisi politica, tant'è che il presidente, in una sorta di tentativo di autogolpe, chiederà al capo di Stato Maggiore di prendere in mano il potere, che a sua volta si rifiuterà appunto di trasformare il Senegal in un regime di militare. La crisi si risolve successivamente e il governo cede, anche se magari parzialmente, alle richieste degli studenti. E riprendiamo la musica, sempre Maria Massan. Il pezzo che vi facciamo ascoltare è Id Chab. لا إله إلا الله لا إله e abbiamo parlato della, di questo anniversario, di questa rivolta studentesca a Dakar e in generale in tutto il Senegal nel 68, anche perché è stata rievocata proprio in questi giorni, perché appunto perché 50 anni dopo, cioè ai giorni nostri, e cioè martedì 15 maggio, sempre con una faccenda di borse di studio, gli Atenei del Senegal sono tornati a ribollire, a scioperare, gli studenti a scioperare e a protestare. Jésus Fallu Sen, appunto lo slogan di questi tempi, di questi giorni, di questo maggio 2018, perché Mamadou Fallu Sené è il nome di un ragazzo di 26 anni morto il 15 maggio nel campus di San Louis in Senegal durante gli scontri della polizia, appunto durante le proteste studentesche. Un movimento nato all'inizio di quest'anno per, come ricordavamo, ritardi nel pagamento delle borse di studio, e in questa circostanza, cioè durante questi scontri che se ne sono succeduti il 15 maggio scorso, altri studenti hanno riportato gravi ferite. Ma la protesta appunto non si è fermata, tant'è che il 24 maggio, cioè poi giorni fa, Jésus Fallu Sené, questa protesta che attualmente prende il nome dallo studente ucciso dalla polizia, è ripartita in diverse città del paese con la partecipazione di migliaia di giovani che reclamano, oltre a migliori condizioni della vita e un diritto allo studio, le dimissioni di tre ministri. Il 5 maggio, sempre a San Luis, sono stati scontri tra universitari e forze dell'ordine, si erano conclusi con una decina di feriti gravi, tutti chiaramente dalla parte degli studenti, e sostanzialmente da quando è iniziato l'anno accademico, cioè dal che più o meno segue il calendario di quelli europei, è stato un continuo susseguirsi di proteste. Le ultime proteste hanno aggiunto come rivendicazione anche la mancanza di energia elettrica nei campus universitari del Senegal. L'ultimo album discografico di Mariam Hassan, pubblicato nel 2012, El Ayoun Egdat, è molto apprezzato sia dalla critica che dal pubblico, la tiene impegnata in concerti eccetera. Nel 2014 però le sue condizioni di salute cominciano di nuovo a essere precarie, però questo non ferma Mariam, che riesce ad essere protagonista ancora in due significativi concerti. Il primo di questi due concerti coincide con l'omaggio che le fa la popolazione di Sabadell, dove lei ha risieduto, che in occasione della giornata mondiale delle Mujeres organizzò appunto l'incontro pubblico dove Mariam Hassan si esibì di fronte alla sua gente in questo concerto. Il secondo invece è andato in scena il 4 maggio del 2014 nella giornata di chiusura del Fi Sahara Festival presso i campi profughi di Dakhla, in un concerto considerato come l'addio per la Hassan alla sua gente, considerato il suo stato di salute. Alla storia infatti passerà come l'ultimo concerto sostenuto dalla musicista. Ascoltiamo quindi di Mariam Hassan Tefla Madluma. Ya Lady, شوفوا يلا لي طفلة مظلومة أشوفوا يلا لي طفلة مظلومة يلا لي يلا لي طفلة مظلومة قصر مزارد نيتي مظلومة قصر مزارد نيتي مظلومة هذي ما يحارد جورا ينتومة يلا لي يلا لي طفلة مظلومة رأيناه في حومة يلا لي يلا لي طفلة مظلومة نيثي من لعيا قصر مظلومة نيثي من لعيا قصر مظلومة يلا لي يلا لي نيثي مظلومة يسوى من هما أقد اللي واسوا يسوى من هما ينصاعوا لسوا وصوعة معلومة يلا لي يلا لي نيثي مظلومة وانا مظلومة الصحراء مظلومة وانتي مظلومة الطفلة مظلومة يلا لي يلا لي طفلة مظلومة يلا لي يلا لي طفلة مظلومة sempre a maggio ma nel 1740 si colloca la nascita di Anastasia, la schiava nera dagli occhi azzurri, simbolo di tutte le donne nere torturate e stuprate a morte dai proprietari terrieri bianchi. Le sarà imposta per castigo una museruola che le causerà una cancrena letale. Concupita dagli uomini, invidiata dalle donne, Anastasia fu amata e rispettata dai suoi fratelli di dolore, schiavi come lei e dalle persone anziane, che in lei trovarono sempre la consigliera amica e qualcuno che possedeva poteri di guarigione per i mali dell'anima e del corpo. Questo è riportato da Antonio Alves Terrera Neto, autore di Anastasia, escrava e martir negra. E ricordiamo che il fumetto, Maria Massà, io sono Sahrawi, lo dico al mondo intero, è il sottotitolo. Gli autori sono Gianluca Diana e Andromalis, è un fumetto, una graphic novel. La graphic novel edita da Barta, Potete trovare informazioni su questo argomento su https://sbarta.it o comunque andando sul sito della casa editrice, e appunto troverete le informazioni. E io sono Saravi, come detto precedentemente, la biografia è illustrata, una storia a fumetti al femminile che racconta le musiche di resistenza, e lungo i sei capitoli, sono sei capitoli appunto divisi, sono sei decenni proprio, la vita di Maria Massam, e ognuno ha il titolo di una delle sue canzoni. E appunto, come detto all'inizio della trasmissione, la vita di Maria Massam scorre parallela alla storia del popolo del deserto, l'infanzia nomade, l'occupazione marocchina, l'esilio, ampio profughi in Algeria, fino alle prime incisioni e ai concerti. E è parlato, è scritto, coloratissimo, e prende spunto proprio dai suoni, la voce di Maria Massam, che è considerata un riferimento della lotta per l'indipendenza del popolo sahrawi. E fra una settimana circa sarà tra l'altro disponibile anche alla biblioteca, alla distribuzione del centro sociale autogestito Next Emerson, via di Bellagio. E vogliamo anche ringraziare Gianluca, che ha fatto una presentazione, una bellissima presentazione nel fumetto, e prima di lui Candud, rappresentante del popolo sahrawi in Toscana, che ha illustrato quella è la situazione attualmente nel West Sahara, e che prossimamente sarà, non sappiamo di preciso quanto, sarà ospite di Radio Wombat per diciamo articolare ancora di più quelle che è appunto quelle che sono le rivendicazioni del popolo sahrawi, quello che sta succedendo tuttora nei campi profughi sahrawi. Di Maria Massam ascoltiamo adesso Legneiba. الرغى طيار طيار قليبة لقليبة قليبة لقليبة هم النار هم النار قليبة لقليبة هم النار هم النار قليبة لقليبة هم النار هم النار قليبة لقليبة هم النار هم النار Finisce qui questa puntata di Uru, ci risentiamo presto, ciao a tutte e tutti.